Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma io ho provato, mi sono anche sparato una roba in faccia vicino, ma a te succede? No, neanche a me è successo. Però in redazione ti assicuro sì, che c'è gente mi hai affetta. Detto, mi hai detto che ce l'hanno in molti. Sì. Va bene, allora, benvenuti, benvenute a Möbius, i titoli, e poi incominciamo da qui, Perché spesso quando si guarda verso il sole o verso una forte luce viene da starnutire? Il quesito della settimana deriva dalla curiosità di più ascoltatori. Identificati da un gruppo di ricercatori di Verona, i geni dell'uva sensibili ai cambiamenti ambientali migliorano la qualità del vino e ne determinano colore e sapore. Molte cellule cancerogene ignorano il farmaco che mira ad aggredirle. Responsabile del fenomeno è una molecola che un team di ricerca dell'Università Milano Bicocca ha individuato. Raccontare la propria quotidiana esperienza della malattia può essere uno strumento terapeutico? Ci dà una risposta la medicina narrativa. Allora, a te non succede, a me non succede, ma tra il 18 e il 35% della popolazione è affetta da questa sindrome. Vuoi sapere di che sindrome sto parlando? Scusa, se vuoi sapere, mi sono messo una lampada a 20 centimetri si improvvisamente in faccia. Si può mettere una lampada, oppure puoi guardare il sole diretto negli occhi. Vabbè, ma era ieri sera. E non ci fa nessun effetto a noi. Che però ad è? Altri starnutiscono. E si chiama sindrome Achu. Con uno strano acronimo inglese. Ma ti dirò, Federico, che adesso ti faccio sentire la domanda dell'ascoltatore, anzi degli ascoltatori, perché ci è arrivata su più fronti. Ci è arrivata da Luigi e da Carlos Max su Facebook, e ti dirò che secondo me è stata in assoluto la domanda più ostica. Insomma, non trovavamo un acciuologo. No, è stato difficilissimo trovare qualcuno preparato e che fosse disposto a raccontarci, a darci la risposta. Ma pensa tu. Davvero. Allora, direi, intanto sentiamo Carlos e poi diamo la parola all'esperto tanto agognato. Perché spesso quando si guarda verso il sole o una fonte luminosa intensa viene da starnutire? Grazie. Va bene, allora l'hai trovato? Sì, l'ho trovato, ho passato mari e monti nord e sud. A questo punto andiamo, direi, all'unità di neuroimmagine del CNR di Catanzaro insieme al professor Luca Passamonti. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Benvenuto. Sembrerebbe l'unico esperto. Ieri abbiamo sentito Luminari, che appunto essendo Luminari starnutivano e non ci dicevano niente. E non ci rispondevano. E solo lei può dare la risposta che cos'è questo starnuto che viene stimolato dalla luce. La ringrazio innanzitutto, non sono l'unico esperto. Posso semplicemente dire che... Spesso le condizioni neurologiche sono molto strane, poco comprese dalla popolazione, a volte anche dai medici. Qui noi stiamo parlando di un riflesso patologico stimolato spesso dal sole, dalla visione di forti luci, ma c'è da dire anche che spesso può essere stimolato da iniezioni perioculari, come spesso possono accadere. Interventi per esempio alla cornea o iniezioni che vengono fatte attorno all'occhio per vari motivi di natura medica o anche estetica, oppure in casi un po' più rari anche quando il soggetto ha lo stomaco pieno. Diciamo che esistono delle vie anomali in questi soggetti che presentano purtroppo una malattia ereditaria, una malattia completamente genetica, che non causa grossissimi disturbi, tranne il fatto che loro hanno appunto questa particolare sensibilità allo starnuto indotto per vie assolutamente non canoniche. Ma mi scusi, quelli che starnutiscono con lo stomaco pieno tendenzialmente sono gli stessi che starnutiscono per il sole, per la luce? È un altro esempio che può stimolazione anomala dello starnuto. Questa condizione è stata inizialmente anche descritta da Aristotele, il quale appunto aveva già riconosciuto che c'erano degli individui che starnutivano se venivano esposti a forti stimolazioni di tipo visivo, come per esempio il sole. Tuttavia gli stessi soggetti in realtà possono avere una sensibilità maggiore all'innesco dello starnuto anche per altri stimoli che normalmente non innescano lo starnuto. Noi in fisiologia sappiamo che lo starnuto è un meccanismo fisiologico che prende origine dal naso, quindi un'irritazione della mucosa nasale, tende a stimolare attraverso vie specifiche cerebrali un riflesso che porta all'espulsione dell'irritante nasale. E questo è lo starnuto tipicamente presente, fisiologica presente in tutti noi. Sfortunatamente per questi soggetti, anche se ripeto non è una condizione estremamente grave, i soggetti possono fare una vita assolutamente normale, sfortunatamente per loro hanno un difetto genetico, proprio una malattia genetica che come si diceva all'inizio della trasmissione coinvolge una certa percentuale della popolazione, attorno al 20%. Eh sì, una media del 20%. Esattamente. Queste persone sono sensibili a stimoli che normalmente non inducono lo starnuto, ovvero le forti stimolazioni visive possono indurre lo starnuto. Secondo alcuni, non si conoscono esattamente nel dettaglio ancora i meccanismi fisiopatologici, cioè si parla dei meccanismi esatti all'interno del cervello che portano a queste vie anomale, però secondo alcuni sembra che ci sia un particolare riflesso che si chiama ottico trigeminale, cioè la corteccia visiva, che è la parte del cervello proprio dietro la nostra testa, molto vicina al collo, è molto sensibile alla stimolazione luminosa ed innesca attraverso vie cerebrali, vie nervose anomali, un'irritabilità nel trigemino, che è poi quel nervo che tutti noi conosciamo quando ci fanno male i denti, poi è anche un innesco dello starnuto. Senta, mi viene assolutamente naturale però chiedere, immagino che se l'aspetti questa domanda, ma ci sono anche dei casi stranissimi di innesco di starnuto? Ecco, adesso la dico. Ieri, professore, ieri un po' ho studiato, visto che di ricerche italiane non ce ne sono tante, ce ne sono su questo tema a Washington, ce ne sono state a Zurigo e ce n'è una abbastanza recente, curiosa, inglese, che dice che anche l'orgasmo genera starnuto. Sì. Se c'è una cosa che questa non dovrebbe... la sapeva, professore. È proprio una roba inopportuna. Ma non è il 20%, sicuramente, però. Forse no. Sicuramente i pazienti spesso ci sorprendono. Esistono anche forme di epilessia dette orgasmiche, in cui il soggetto sfortunatamente ha un attacco epilettico in certe zone del cervello e la sua crisi epilettica è praticamente un orgasmo, e questo dipende dal fatto che alcune zone, i centri del piacere del cervello, vengono stimolati in modo anomalo, in questo caso dalla crisi epilettica. Il soggetto spesso in situazioni del tutto inopportune, per esempio mentre sta facendo la spesa al supermercato, può provare un orgasmo, quindi non mi stupisco che esistano anche casi un po' più strani. Poi chiaramente sono eventi abbastanza rari e quindi spesso i pazienti, le ripeto, ci sorprendono con dei sintomi che spesso non ci aspettiamo. Insomma, però alla radice quello che lei ci sta dicendo è che noi abbiamo, come dire, tutti i nostri apparecchietti distribuiti in vari posti del corpo, dovrebbero essere connessi in un certo modo standard, qualche però volta. In alcuni casi c'è un filo collegato che non dovrebbe essere. Non fa niente, siamo belli così. Va bene, grazie davvero Passamonti, bella questa grazie risposta. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quando si parla di vino, cosa bisogna essere? Contenti. Sì, contenti, perché in vino veritas. In quindi vino veritas. Adesso vi racconteremo una verità nuova che è stata scoperta in questi giorni da un gruppo che in realtà è già noto, un gruppo dell'Università di Verona che è già noto per aver fatto il noto sequenziamento della vite. E poi l'abbiamo sentito, adesso vediamo se qualche ascoltatore attento se ne ricorda, il nostro ospite che è qui con noi questa sera, Mario Pezzotti. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Buonasera Pezzotti. Lei è già intervenuto in trasmissione perché ha sequenziato la vite l'Amarone, specialità Corvina, specie Corvina se non erro. Varietà Corvina. Ecco, lei è coordinatore del laboratorio di genetica delle piante dell'Università di Verona, del Dipartimento di Biotecnologie, e torna agli onori della cronaca scientifica per parlarci questa volta di alcuni geni che avete identificato che sarebbero un po' alla base della qualità del vino, cioè ne migliorano la qualità, il colore, il sapore. Perché, insomma, cosa fanno questi geni? Ci dica un po', ci racconti un po' quali studi nuovi avete fatto. Credo che gli ascoltatori forse si ricorderanno che nel 2007 è stato decifrato il genoma della Vitis vinifera, di una varietà non coltivata. Nel 2010 noi abbiamo decifrato il genoma della varietà Corvina e adesso abbiamo studiato un fenomeno interessantissimo, genetico interessante nella vite, che si chiama plasticità fenotipica, vale a dire la performance differente di singoli individui in ambienti diversi. Cioè, come reagiscono? La risposta genetica di un singolo individuo in diversi ambienti. Questo nella vita è fantastico, perché voi, come gli ascoltatori magari sapranno, la stessa pianta di vite in luoghi diversi dà risultati completamente diversi e anche contrastanti. Quindi c'è una relazione con l'ambiente fortissima. Con quali componenti dell'ambiente? E soprattutto, per lei un individuo cos'è? Un individuo è una singola pianta di vite che viene definita clone, ma da non confondere con i cloni, l'ingegneria genetica. Le pecore, clone, certo. È una porzione di pianta che viene propagata per milioni di gemme e che dà origine a milioni di individui. Okay. In viticoltura si utilizzano i cloni, e noi abbiamo studiato un singolo clone della varietà Corvina coltivato in 11 aziende diverse del territorio veronese, quindi in luoghi diversi, quindi in ambienti diversi, per 3 anni di seguito. E quindi abbiamo fatto uno studio unico al mondo, perché nessuno ha mai fatto prima un'analisi di questo tipo in termini di analisi dell'espressione genica. Cioè abbiamo studiato, avendo a disposizione il genoma, abbiamo sviluppato strumenti che ci permettevano l'analisi di 30.000 geni contemporanei. Questo strumento si chiama microarray, è un piccolo vetrino da microscopio dove sul vetrino vengono sintetizzati attraverso delle tecniche di nanotecnologia 30.000 geni che noi possiamo monitorare in qualsiasi situazione. Quindi utilizzando questo vetrino e andando a prelevare l'RNA dalle bacche di vite coltivate nelle 11 aziende in momenti diversi durante la maturazione della bacca, ne avete confrontati. Abbiamo studiato i geni. Avete confrontato. Ecco, ma senta Pezzotto, intanto lei ci sta dicendo, l'ha detto un po' al volo, non vorrei che sfuggisse, non è che questi individui appunto erano uno in Australia, uno in Russia, uno in Cina, erano un territorio abbastanza limitato, quindi vuol dire che sono sensibili a piccole anche variazioni. Guardi, lei in viticoltura, io vorrei dire, l'utilizzo del genoma è molto importante per nell'uomo, in tutte le specie. In viticoltura è particolare perché possiamo cominciare a interpretare la viticoltura in termini genomici, vale a dire, quando l'uomo coltiva, la pianta di vite di fatto è una liana. Non è una pianta controllabile. Allora, per questo l'uomo fa una serie di operazioni culturali molto, molto fini e molto definite. Come saprete, in viticoltura si parla anche di un concetto francese che si definisce terroir. Terroir è la combinazione dell'ambiente e delle pratiche culturali che l'uomo fa in quell'ambiente. Il terroir più famoso che esiste al mondo è quello di Bordeaux. Di Bordeaux. I francesi vendono il terroir insieme alla bottiglia di Bordeaux. Abbiamo voluto studiare se nella zona dove si produce l'amarone attraverso l'utilizzo della varietà Corvina era definibile un terroir. Ed è definibile? Ed è definibile, ed è stato molto bello definirlo attraverso lo studio in tre diverse annate, diciamo, vitivinicole. Quindi abbiamo studiato, questo studio è cominciato molti anni fa, nel 2006, nel 2007 e 2008. Abbiamo prima raccolto tutti i campioni e poi l'esperimento scientifico in laboratorio è durato per altri 2 anni, quindi siamo arrivati al 2010-2011. Finalmente siamo riusciti a interpretare una grandissima mole di dati. Però, Pezzotto, c'è un punto importante che vorremmo capire. Voi avete analizzato il comportamento di individui, vino individui diversi, in diverse situazioni ambientali. Avete scoperto comportamenti diversi oppure comportamenti analoghi? Questo per chiederle se il terroir deve essere invece una situazione in cui abbiamo un comportamento standard. Abbiamo studiato un unico individuo, ci tengo a dire che è un unico individuo, sì. Quindi un unico clone, perché diminuiva la variabilità genetica, quindi certo. Un unico individuo, un unico clone per tante aziende. Abbiamo scoperto quali sono i geni che negli anni e nelle aziende sono praticamente stabili, sì. E i geni invece che negli anni e nelle aziende si muovono e si esprimono in maniera diversa. Ok, ma l'obiettivo è ottenere invece quello che resta uguale, che ha una personalità stabile? Questo è vero fino a un certo punto, è la personalità di un terroir, ma poi azienda per azienda vogliono avere una loro personalità. Caratterizzazione. Okay. E quindi all'interno del terroir ognuno si vuole caratterizzare. La cosa più interessante che abbiamo, una tra le cose più interessanti che abbiamo scoperto è che ci sono due elementi importanti nel terroir. L'elemento, diciamo, climatico è importante quando è estremo. Abbiamo avuto la possibilità in queste tre annate di trovare un'annata, il 2007, che è stata un'annata estremamente calda in primavera, bellissima, che ha cambiato completamente il decorso della maturazione, e le differenze tra le aziende non si vedono più. Mentre in un'annata standard le differenze si osservano, e la cosa più interessante è che si trova una combinazione molto forte tra il sistema di allevamento che le aziende utilizzano e il luogo dove sono. Ecco, infatti volevo proprio chiederle, questi geni che si muovono, come diceva lei, da che cosa sono influenzati? Beh, adesso ci diceva ovviamente dall'irraggiamento solare, però, il clima, ma penso anche qualcosa che deriva dal terreno, non so, l'acidità piuttosto che qualcos'altro. Allora, i terreni sono importanti, ma nei terreni altrettanto importante è il portinnesto della vite, che la vite è un'unica pianta ma che è costituita da due specie diverse. Le radici appartengono a degli ibridi tra la vitis vinifera e altre viti selvatiche, che sono state sviluppate agli inizi del Novecento in questo paese per risolvere il problema della fillossera, che era un insetto che ha distrutto tutta la viticoltura europea, dalla Francia all'Italia alla Spagna. Attraverso questo portinnesto si riesce a risolvere la fillossera, che è ancora presente nei nostri territori, e nel piccolo stelo sopra le radici che si sviluppa viene innestata la vitis vinifera, quindi varietà italiane, la corvina, il nebbiolo, il sangiovese, il fiano, il greco, tutte le varietà che voi volete immaginare sono vinifera, diciamo, nella parte epigea, e l'ibrido nella parte ipogea. Allora, quindi, accanto alle cose che vi ho detto, che sono il tipo di allevamento, la densità di piante, l'esposizione dei filari nord, sud, ovest e ovest, conta anche molto il portinnesto. Quindi noi siamo riusciti a capire quali sono i geni che in tutte queste variabili sono fondamentali, e possiamo definire adesso un processo di maturazione ottimale della bacca e variare nelle singole aziende singoli parametri per ottenere sempre un risultato di alta qualità. Ecco. Però senta, quello che viene fuori da tutto ciò è che la vite è un essere vivente che ha una sensibilità estrema, molto più elevata di tanti altri. Quello che lei dice veramente mi riempie di gioia, perché è esattamente quello che pensano tutti. La vite è una specie altamente plastica, direbbero i genetisti, come siamo noi, in quanto ha la capacità di adattarsi. Un singolo individuo può dare differenti fenotipi in funzione dell'ambiente, e quindi rispondere in maniera diversa in luoghi diversi. Immaginate che per i vini più famosi, una bottiglia di Romanée Conti, che è un clone di Pinot Noir che è coltivato in una abbazia della Borgogna in Francia, costa 5.000 euro. Lo stesso Pinot coltivato a 200 km di distanza, lo stesso identico clone di Pinot, quindi lo stesso identico genotipo, dà risultati assolutamente diversi, non confrontabili. Infatti le stavo proprio per chiedere se lo scopo poi della vostra ricerca potesse in qualche modo essere utile per appunto migliorare la qualità dei nostri vini, ad esempio in questo caso veronesi, quindi volta anche al miglioramento di quello che è il prodotto finale, in questo caso il vino. Migliorare in termini di evitare quello che succede in alcune annate in cui abbiamo produzioni ottime e altre annate produzioni non ottimali. Dare delle informazioni scientifiche su basi molecolari a coloro che fanno viticoltura per ottenere una qualità della bacca che sia sempre ottimale. Questo è quello che possiamo fare oggi. Bene, questo ora è tutto molto più chiaro. Pezzotti, la salutiamo. Io dico a te, Chiara, insomma, questo vino che ha mille facce ce lo rende simpaticissimo. Stava simpatico anche per me. È un animale simpaticissimo. Però adesso molto di più. Posso dire l'ultima cosa? Sì? Lasciare dire. La viticoltura è la nostra storia agricola e anche sociale, perché parte dai Sumeri, arriva ai Romani e si sviluppa con noi. Oggi possiamo, attraverso tecnologie innovative che sono basate sulla molecola del DNA, definire gli elementi della viticoltura e dissezionarli per avere dei risultati sempre ottimali. Bravi allora, buon lavoro Pezzotti. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci Pezzotti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi presento subito la mia ospite. Buonasera Maria Luisa Lavitrano. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Oh, grazie. Direttore del laboratorio di medicina molecolare dell'Università Milano Bicocca. Allora, benvenuta. Però arriveremo a quello che avete combinato, che è veramente una bella cosa in termini di ricerca, però io le chiedo all'inizio di spiegarci, come dire, il teatro, il contesto in cui ci muoviamo, e se c'è qualcosa che non capisco io la interrompo e le chiederò delucidazioni. Allora, dove siamo? Dunque, l'obiettivo del nostro studio era quello di mettere a punto un protocollo di ricerca per sconfiggere la resistenza ai farmaci chemioterapici per alcuni tipi di tumore. Sì. Vi sono alcuni tumori, tipo il tumore del colon, dell'ovaio, della mammella, del polmone, ma insomma tanti altri, per i quali i farmaci oggi in uso non sono efficaci per tutti i malati, e quindi molti malati purtroppo vanno in recidiva E le cose si mettono male. Quindi per alcuni malati, e non per tutti, ma per alcuni malati il farmaco non agisce. Per alcuni malati il farmaco non agisce, esattamente. Cioè questo fenomeno che si chiama chemioresistenza. Ok, e si sa da dove viene, perché, come mai? O si sa poco? La chemioresistenza purtroppo è un fenomeno complesso e del quale non si conosce tutto completamente il meccanismo molecolare. Ah. Ed è stato proprio questo il motivo per cui 8 anni fa abbiamo fatto con una metodologia d'avanguardia uno screening e abbiamo identificato 49 molecole che sono coinvolte in questo fenomeno della farmacoresistenza nei tumori. Ecco, quando lei dice che ci sono delle molecole che sono coinvolte, queste molecole che molecole sono? Sono molecole presenti nella materia vivente in loco, no? Sì, sono, in pratica sono dei geni che codificano, degli oncogeni che codificano per delle proteine, quando presenti, quando attive, purtroppo sono responsabili in qualche modo di questo fenomeno di farmacoresistenza. In realtà quello che succede è che il farmaco dovrebbe, il chemioterapico dovrebbe indirizzare le cellule tumorali verso la morte, invece queste cellule tumorali non riescono a morire. Ci sono delle molecole che fanno come una barriera praticamente. Ci sono delle molecole, esatto, che fanno come la barriera, cioè che rendono le cellule cancerose sopravviventi a qualsiasi tipo di trattamento. E questo è un fenomeno di cui lei dice si sa ancora ben poco. Però voi avete cominciato a dire, va bene, anche se non ne sappiamo molto, però proviamo ad aggirare il problema e a creare qualcosa che possa togliere di mezzo, per esempio, queste molecole? Abbiamo fatto molto di più, non abbiamo voluto aggirare il problema. Abbiamo frontali. Fatto un sistematico, noi lo chiamiamo high throughput screening, cioè abbiamo cercato tutte le molecole che potevano essere coinvolte in questo fenomeno della farmacoresistenza. Abbiamo trovato ben 49 nelle cellule tumorali di colon, del carcinoma del colon, e abbiamo iniziato a studiarle. Quello che sarà pubblicato in questi giorni è proprio, e che è stato pubblicato in questi giorni, è proprio il lavoro, diciamo, che presenta la conclusione dello studio sulla prima di queste molecole. Ok, quindi avete individuato queste 49 molecole e poi avete incominciato a lavorare su una. Abbiamo cominciato a lavorare su due, in verità. Su due. Lo studio è concluso su una, sì. E questo studio vi porta? Questo è uno studio molto bello, perché è uno studio che diciamo inizia dagli studi in vitro, quindi in laboratorio, e arriva proprio ad uno studio sui malati. Abbiamo dimostrato con esperimenti, quindi sulle cellule in vitro e anche in vivo nel modello animale, che questa molecola, che si chiama GSK3-beta, è coinvolta nella farmacoresistenza del carcinoma del colon umano. E abbiamo anche dimostrato che bloccando questa molecola, GSK3-beta, le cellule tumorali resistenti diventano sensibili all'azione del chemioterapico. E abbiamo anche scoperto qual è la via molecolare che viene attivata per indurre la morte. Questo è importante, perché quando si conosce l'intera via molecolare, poi si possono anche immaginare, diciamo, dei farmaci, delle molecole che possano ripristinare questo meccanismo di morte. Ecco, ma a questo punto in che modo l'avete fermata? Cioè con quale principio attivo, con quale azione? Dove avete trovato il modo di bypassare questa barriera? Molto interessante. Quello che abbiamo visto è che questa molecola, GSK3-beta, in realtà è una molecola che è coinvolta in molti meccanismi, diciamo, del metabolismo cellulare, soprattutto regola la sopravvivenza della cellula, il metabolismo della cellula. E noi abbiamo, abbiamo visto che un farmaco che è già in uso da molti anni per la terapia di disordini neurologici, quale l'epilessia, la depressione, il disordine, la sindrome bipolare, ha come target questa molecola, e quindi abbiamo provato in esperimenti in vivo sull'animale, cioè abbiamo trapiantato tumori umani resistenti nella, nell'animale di laboratorio, nei topolini, e abbiamo visto che somministrando questo farmaco il tumore resistente diventa sensibile alla terapia con questo con farmacocamioterapico. Ma come diavolo fate a andare a prendere una cosa che è lontanissima, che arriva dall'epilessia, e riuscire a capire che funziona per una battaglia contro il cancro? Sembra veramente impossibile, no? Con tutte le malattie e i milioni di molecole che ci possono essere. Guardi, questi, diciamo, questi risultati sono, hanno le radici nella tenacia, nella creatività, nel lavoro di squadra, nella grande potenza di internet, sa, perché... Anche quello? Perché oggi, diciamo, ci sono tantissimi dati pubblicati, e questo ci aiuta moltissimo, perché bisogna saperli leggere, bisogna saper trovare relazioni tra le molecole, relazioni tra molecole e farmaci, relazioni tra molecole e malattia. Questo è quello che deve fare il bravo ricercatore. Quindi, da una parte grande conoscenza, ma dall'altra anche un'abilità quasi poliziesca per seguire tracce, indagini. Abilità poliziesca, insomma, è metodo. La medicina molecolare fa proprio questo. Cioè, noi studiamo la patogenesi delle malattie a livello molecolare. Il nostro, diciamo, il grande intuito di quelli che come me da anni, sono 30 anni che perseguo questi scopi, è quello di cercare quali sono le vie molecolari responsabili delle patologie, e quindi individuare delle molecole che possono essere target sia per una diagnosi molto raffinata, molto specifica, sia per la terapia, e quindi offrire una terapia tailored, no? Personalizzata al paziente, che proprio, diciamo, gli si dà un farmaco che è quello giusto per quel soggetto, per la sua malattia. Senta, Maria Luisa Lovitrano, allora abbiamo capito bene e abbiamo anche descritto bene tutto il contesto, siamo verso la conclusione. Da questa cosa, però, oltre a, diciamo, i complimenti per la ricerca che avete svolto, bene, però c'è anche da dire un'altra cosa interessante: voi avete costruito uno spin-off, e quindi ne è venuta fuori una, come spesso si fa, dalla ricerca universitaria ne è venuta fuori un'azienda che adesso in qualche modo riuscirà a maneggiare anche in termini di mercato questo risultato. Io sono anche diventata imprenditrice. L'ho fatto perché questo ritenevo fosse l'unico modo per rendere utili per i malati i risultati delle nostre ricerche. Abbiamo fondato nel 2009 uno spin-off universitario, si chiama Bionsil, uno spin-off dell'Università Milano Bicocca. Questo poi è stato, ci siamo sottoposti a due diligence. Cioè ad un'analisi di tutto il vostro, diciamo, patrimonio, ecco, dal punto di vista del mercato, diciamo, certo. Sì, e poi un gruppo di investitori. Tre grandi fondi di investimento come TT Venture, Como Venture e Aura Holding hanno creduto e hanno avuto una buona lungimiranza e hanno finanziato il nostro spin-off, le nostre e le nostre ricerche. E tra l'altro vorrei anche ringraziare chi mi ha aiutato a diventare imprenditrice, perché un po' ci si nasce, ma c'è tanto da imparare, e gli amici di TT Venture sono stati dei grandi maestri. Senta, è più facile fare medicina molecolare o fare l'imprenditrice? Non è facile fare imprenditori adesso. Non è facile fare l'imprenditore. Noi, devo dire, siamo stati molto fortunati. Molto fortunati perché, diciamo, le basi del nostro lavoro evidentemente erano solide, però trovare anche, diciamo, dei fondi di investimento che abbiano la lungimiranza di voler investire. Non è facile. Ci vuole bravura, ma ci vuole anche fortuna. Un po' anche quello, sì. In Italia non è facile come da altre parti. Maria Luisa Lovitrano, grazie e complimenti per tutto, sia per la ricerca che per l'impresa. E soprattutto speriamo che queste ricerche presto possano essere utili per i nostri malati, e poi, perché no, possano anche creare, diciamo, nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani. Vede, uno dei motivi e degli obiettivi della creazione di uno spin-off è anche quello di non arrendersi, non arrendersi, creare nuove piccole opportunità di lavoro per i nostri giovani. Grazie e buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. Oh, adesso vi racconto una vicenda che è accaduta nel 2030, sì, nel 2030, quando il programma giapponese di ricerca sulle badanti robotiche, varato nel 2010, entrò pienamente in funzione. $30 miliardi. Va bene, la vicenda è questa. Masaki Yoshoka, un uomo molto in là con gli anni, affetto da una grave forma di asma, era accudito da una Tamata 16 prodotto dalla Huawei. Tamata doveva almeno due volte al giorno somministrare a Yoshoka 15 gocce di Anoxan, un neurostabilizzatore. Marunouchi, nipote di Yoshoka, erede già designato, voleva affrettare, la dipartita dello zio e si presentò a casa sua un pomeriggio attendendo il momento in cui Tamata avrebbe preparato l'Anoxan. Decise di impedirne la somministrazione, Tamata reagì, Marunouchi un po' per difendersi ma forse anche per la sorpresa di doversi confrontare con un robot si trovò a compiere strani movimenti, perse l'equilibrio, si infilò dentro una finestra volando giù nel cortile. L'inchiesta e il processo che ne seguirono furono il primo caso con un simile quadro giudiziario. Chi era responsabile dell'accaduto? La Huawei come azienda produttrice dei Tamata 16? Il ricco Yoshoka in quanto proprietario dei robot? Il nipote, perché come sosteneva l'accusa la dinamica dell'accaduto denunciava un evidente tentativo di impedire l'attività terapeutica di Tamata, oppure l'ente per la certificazione delle funzionalità dei robot dal quale dipendeva la licenza di operatività dei Tamata 16. Fine del racconto. Allora, a Milano il 18 giugno, chi volesse venire, anche noi di Mebius siamo un po' coinvolti, c'è un convegno che ha questo titolo: riflessioni scientifiche, giuridiche e di governance nell'era dell'intelligenza ambientale, dei robot e delle smart city, perché parleremo in generale di questi ambienti intelligenti dove tecnologie di diverso tipo ormai ci circondano ma soprattutto ci circonderanno, e quindi bisogna cominciare a ragionare quali sono gli aspetti di regolamentazione e anche quelli di tipo giuridico. A Milano il 18 giugno nell'aula magna dell'Università Statale in via Festa del Perdono al 7. Grazie, non portateci l'aspirapolvere, quelle evolute, pensando che possiamo ripararle, perché non le ripariamo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quando noi umani parliamo delle nostre malattie, quando le raccontiamo, naturalmente le malattie non quelle come il raffreddore o un po' di mal di schiena, quelle più complicate. Di questo stiamo per parlare e lo faccio questa sera con Micaela Castiglioni. Buonasera Castiglioni. Buonasera a lei. Lei è docente di educazione per gli adulti, educazione permanente a scienza della formazione qui a Milano Bicocca, l'Università Milano Bicocca, ma in particolare lavora alla formazione degli operatori medico-sanitari. Allora, mi dica se sbaglio. No, è corretto. Ma soprattutto mi dica se sbaglio adesso nell'introdurre, nel dare il titolo a questa cosa. Allora, ci sono sempre più strumenti e quindi prodotti editoriali, chiamiamoli pure così, mediatici, nei quali noi, quando abbiamo a che fare con una patologia di una certa complessità, raccontiamo tutto il nostro vissuto rispetto a questa patologia. Sono aumentati i libri negli ultimi anni, ci sono anche trasmissioni nelle quali si raccontano questo tipo di esperienza, ma soprattutto la rete è diventata un luogo nel quale possiamo trovare dei siti molto specifici per tutte le patologie, nei quali ci sono lunghi racconti e continui, insomma, del vissuto del malato, del paziente. Voi e lei insieme a un gruppo, insomma, state lavorando a, e che credo sia però anche, come dire, un'attenzione che si sta sviluppando a livello internazionale, state lavorando sulla possibilità di utilizzare questi racconti non tanto come delle fonti per capire che cosa pensa il malato, ma proprio come strumenti terapeutici, cioè che possono essere inserite in un'attività terapeutica. Può sembrare strano, provi a chiarirci subito questa cosa qua. No, certo, sì, è vero quello che lei dice. diceva, il nostro, conosco perché appunto è un gruppo di lavoro, cito anche la collega, la dottoressa Lucia Zannini, si inserisce nella prospettiva delle medical humanities, ossia della medicina narrativa, della possibilità quindi di utilizzare con molta attenzione chiaramente dei piccoli momenti di scrittura, quindi narrazione scritta, offerti o messi a disposizione, ecco, dei pazienti. È molto importante anche il fatto di poter avere un progetto, per cui in quella giornata io non mi vivo solo ed esclusivamente come persona che sta affrontando anche un ostacolo molto grosso nella sua vita, ma ho ancora delle relazioni, degli spazi in cui poter vivere delle altre parti di me. Quindi è una sorta di appuntamento, potremmo dire, con un'altra parte di me, della mia vita, della mia storia. Sì, ma mi spieghi bene però, si vengono a formare dei gruppi di persone che affetti da una particolare patologia, però inseriscono nella propria vita costantemente in contatto con attività terapeutiche, però appunto di tipo farmacologico, inseriscono il fatto di incontrarsi e parlarsi, ma questo sembrerebbe, come dire, l'introduzione di un'attività di supporto psicanalitico quasi all'interno dell'attività. E questo effettivamente non è mai avvenuto prima, insomma, cioè sembra un po' strano, ma però è così. Dunque, allora, mi preme forse un po' anche forse fare un po' più di chiarezza, nel senso che questo intervento, se possiamo chiamarlo intervento, cioè accompagnare una persona che vive, prima che paziente direi una persona che vive un'esperienza di malattia, perché è radicalmente diverso, vuol dire riconsegnargli la sua storia, è un intervento sì pedagogico, educativo, ma nel senso di autoformativo, cioè è una sorta, non ha niente a che vedere con la psicanalisi o la psicoterapia, perché anzi, forse una persona che, non so, per esempio, sta facendo una chemioterapia per una malattia appunto oncologica, magari non ha neanche proprio più voglia di avere dei contatti ancora con degli altri esperti. Sì. Questa è una formula, se vuole, più morbida, più soft, di prima soglia. Perché? Perché sostanzialmente va a intercettare, ecco, potremmo dire, un po' quell'area del disagio, del malessere, che forse troppo spesso o troppo velocemente viene affidata o allo psicologo oppure viene molto medicalizzata, quando invece magari la persona in quella situazione ha proprio bisogno di poter trovare uno spazio in cui si ferma, lascia un pochino decantare le sue emozioni, che possono essere molto forti, contrastanti, angoscianti, eccetera, si mette in relazione anche con gli altri che stanno vivendo la sua stessa situazione, e quindi mi sento meno solo, meno arrabbiato con il mondo, perché è capitato proprio a me, no? La domanda che ci viene spontanea anche quando abbiamo una malattia un po' meno importante, è capitato anche ad altri, fa parte della vita. Ma è proprio un momento in cui mi fermo, penso e soprattutto mi costruisco attraverso il racconto, un racconto interiore dentro della mia vicenda in cui io mi possa riconoscere. Sì. Cioè è mio, lo sento mio e quindi riguadagno un pochino la continuità di una mia storia, perché la malattia la frantuma. Sì, sì, quindi dobbiamo dire che è uno strumento che state sviluppando con estrema precisione, cioè è qualcosa che si differenzia dal rapporto che si ha in psicanalisi, perché intanto si è in tanti, si differenzia dal supporto terapeutico, psicoterapeutico, è veramente qualcosa studiato ad hoc per questo tipo di, per ottenere questo tipo di confronto e di relazione. Sì, per riuscire, giustamente come dice lei, per cercare, ecco, di accompagnare la persona e le persone a poter riscoprire anche delle risorse dentro, che in certe situazioni poi inevitabilmente magari uno scopre di averle che non pensava. E quindi racconto come potersi dire bene, anche con un atto di coraggio sicuramente, di sfida, non sempre ce la si fa assolutamente, dipende anche dalla giornata, dal momento, ma a partire, potremmo dire, da tutto ciò, dalla malattia che purtroppo mi è capitata sulla testa perché non l'ho cercata, bene, a partire da ciò e nonostante ciò, che cosa posso ancora fare per me? Così diventa effettivamente uno strumento terapeutico, indubbiamente. Diventa terapeutico nel senso di ripristinare dentro un racconto che può essere aiutato dalla persona esperta sicuramente, che conduce il gruppo con questo tipo di approccio, che mi dà delle serie di sollecitazioni per scrivere alcuni aspetti della mia vita, ma che possono anche essere degli aspetti non necessariamente legati alla malattia. Cioè possono anche essere degli aspetti, non so, per esempio a me capita in questi laboratori di partire, non so, chiedendo di ricordare un sapore dell'infanzia, un odore dell'infanzia, una filastrocca, per poi gradatamente, se il gruppo lo vuole, posizionarci di più su vissuti dell'attualità che possono essere quelli di malattia, ma non necessariamente. Sì. Quindi dipende anche molto dal fatto che ci sia una richiesta esplicita o magari un po' una curiosità del gruppo di pazienti verso la scrittura e non necessariamente subito la scrittura dell'esperienza di malattia. Perché fa parte di questo tipo di intervento il fatto che ci sia non solo un racconto orale ma anche scritto proprio? Sicuramente, diciamo, lo strumento principale, sì. Però può anche essere affidato e coniugato anche ad altri linguaggi, non so, mi capita di usare delle fotografie che chiedo loro di portare, degli oggetti, e quindi il racconto può essere alternato, non ci può essere un momento più orale. Più orale e più scritto. Sì, perché magari ci sono persone che amano parlare oralmente e magari detestano la scrittura, in modo che ognuno possa avere un po' il suo canale espressivo, perché se la malattia ti costringe a tante cose, che almeno quello sia un po' uno spazio anche di tempo per sé. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, arrivederla. Non c'è più un secondo di tempo. Buona settimana a tutti e a tutte.